mi lasciasti in quell'angolo così. Gli occhi fissi sulle tue parole, non ti servo rancore ora. Lunedì mi tenevi stretto fra i libri di scuola, fra i palazzi vecchi di questa città che mi dà emozione ancora. Allora sì, che vale la pena vivere e soffrire. E allora sì, che vale la pena crescere e capire. Credere ancora all'amore, farsi portare un po' di più. Oppure è tutta suggestione, questa vita, questa vita. Cerco Enrico, ma Enrico non si trova. Forse a caso oppure in autostrada ancora. Noi che corriamo troppo questa solitudine. E allora sì, che vale la pena vivere e soffrire. E allora sì, vale la pena crescere e capire. Credere ancora all'amore, farsi portare un po' di più. Oppure è tutta suggestione, questa vita, questa vita.